Buongiorno a tutti, sono Fabio Tamburini, nuovo direttore. Nello slogan Radio 24 La passione si sente, mi riconosco fino in fondo. Ho scelto la professione di giornalista per passione, ho continuato a farla per passione e ancora oggi, nonostante gli anni che passano, la passione è la stessa del primo giorno. Il mio maestro di giornalismo mi ha insegnato che il servizio migliore è scoprire notizie che il pubblico non conosce ancora, raccontarle nel modo più gradevole, saperle commentare senza pregiudizi. Questa è la mia dichiarazione di intenti. Non ho dubbi sul risultato perché la redazione dei giornalisti di Radio 24 e l'intera struttura sono di notevole valore professionale. In più, l'appartenenza al gruppo Sole 24 Ore è garanzia di qualità. Radio 24 è ormai una testata consolidata che nei mesi scorsi ha compiuto 10 anni di vita ed è cresciuta grazie ai 3 direttori che mi hanno preceduto e che mi fa piacere ricordare in quanto ognuno di loro ha dato contributi importanti. Nell'ordine Lia Zamboni, Giancarlo Santalmassi, Gianfranco Fabi. Dopo la grande crisi economica cominciata nell'estate 2007 e peraltro non ancora finita, nulla è più come prima, anche nel mondo dell'informazione. Per andare avanti e raggiungere risultati occorrono impegno e cambiamenti profondi. La certezza è che Radio 24 sarà in prima fila, sia migliorando la qualità, sia raccontando le trasformazioni inevitabili che ci saranno nella vita di ognuno. Infine, un ringraziamento a chi mi ha nominato: il presidente del gruppo Sole 24 Ore Giancarlo Cerutti, l'amministratore delegato Donatella Treu, il consiglio di amministrazione di Radio 24 guidato dall'amministratore delegato Roberta Lai. E buona giornata a voi, ascoltatori, che siete per noi il bene più prezioso.